l'immenso che mi assale, un vortice di storie già ascoltate abbandonate alla realtà. La polvere copre già la mia età, le ombre del passato non dissolveranno mai. Oggi come ieri.